un record a livello europeo per quanto riguarda la disoccupazione giovanile. Prendere dalle tasche dei cittadini, aumentando le tasse e tagliando i servizi. Ma basta! Ma tutti devono andare a casa! Tutti i politici italiani devono andare a casa! Una parte di me si domandava quale fosse l'obiettivo da raggiungere. Adesso che ho riscoperto me stesso, osservo quella parte di me sorridere e vivere. Senza lancette del tempo per godermi di questo momento, voglio cancellare tutto il resto quando ti sento qui al mio fianco. Se vorrai, il mondo intorno a te migliorerà. Racconta questo ai sogni tuoi, con false promesse cosa farai? Respira un C'era una volta l'Italia, quella di mio nonno, fondata sul lavoro e sui diritti dell'uomo. Adesso c'è l'Italia, l'Italia quella mia, fondata su pigrizia e sul lavoro di fantasia. L'Italia degli omicidi, l'Italia pronta alla morte, la legge uguale per tutti. Ma solo a volte aspettavo un cambiamento, ma ora sono stanco, armato di futuro, con la voce io combatto. Io non posso più sopportare questa gente che pensa a rubare. Adesso, se stiamo insieme possiamo, non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto, non è mai troppo presto, non è mai troppo presto.